Una mattinata con cose diverse e sono le 11.36, squilla il telefono, chissà, forse è per noi, forse no. Abbiamo sentito fino adesso Daniele e ci ha raccontato delle cose anche inquietanti, interessanti ma inquietanti, nel senso che insomma questo è un problema serio, non è proprio possibile far finta di non vederlo. Questo dei poteri che si agitano nella città e che usano chi capita per determinare delle situazioni che sono oggettivamente un attacco alle condizioni di vita di tutti, a prescindere dalla categoria di cittadino, lo sono per i più deboli, e quindi in questo senso va approfondita questa questione. Noi ci prendiamo qualche minuto di musica, se non c'è una telefonata che va messa in onda. Pronto? Sì, c'è una telefonata? Pronto? Luca, Sannunzio. Adesso non fammi il circoletto Piwik. Chi sei? Chi non so sei? Sannunzio, Luca. Ma Nunzio chi? Ho detto al compagno di prima. Ma sì, sto scherzando, dai. E il circoletto? De Piwik, no, nel senso c'era Daniele prima al telefono, poi telefoni tu, sembra che stiamo a fare, siamo in tutti noi. Vabbè. Vabbè, se vuoi allora di a qualcun altro le telefonare. No, te dovevi presentare. Te dovevi presentare, sono Nunzio Derme di... No, io ho detto al compagno Sannunzio, ma no, Sannunzio, dovevi essere più formale, più... Ah, tu mi stai chiedendo questo, cioè di essere più radiofonico, più serio, più... Insomma, ho avuto questi requisiti io, purtroppo. Lo so, vabbè, no, entriamo nel merito, no, ma noi parliamo di cose serie, entriamo un po' nel merito, stai a sentire un po'. Sì, ho sentito Daniele, ma cioè, questa qua è una situazione che si riproduce oramai da decenni, insomma. Ma non è che la colpa è di chi ha provato comunque a costruire, a ridisegnare i quartieri a partire dal basso, costruendo istanze associative, spazi sociali, iniziative di dibattito, battaglie per la difesa dell'ambiente e del contesto dove stai, comitati di quartieri usato come appunto strumento privilegiato delle trasformazioni urbane. Questo è stato uno dei grandi meriti dei comitati che sono nati pure in alcune aree diciamo della città, soprattutto chiamiamola la cosiddetta periferia storica. Fra il Pignere e San Lorenzo non è che viene una grande differenza, anche se a San Lorenzo c'è un insediamento diciamo un po' più storico dei compagni, via che mi chiamassero dopo. Lo dico io? No, c'è un compagno. Ah, vabbè. E quindi voglio dire, nel senso, io penso a San Lorenzo come era diciamo prima, no? Com'era quando io ero un bambino dei 14 anni che veniva via di Corci perché stava... Tu non sei mai stato un bambino dei 14 anni. Non ho avuto questa opportunità. No. Già a 14 anni eri già... Purtroppo eri già adulto. Un po' particolari, Luca. Sì, lo so. Insomma, praticamente che cosa succede? Succede che, voglio dire, uno fa una scelta da un lato nelle periferie e dall'altro pure cerca di fare i conti con quello che rimane, insomma, di una grande esperienza che poteva essere appunto quella di via di Corci, quella di San Lorenzo, dove per anni comunque, a parte la radio che c'è stava, che c'è, non c'è più sta, che c'è stava e che c'è stava e che c'è, grazie. E c'è stato comunque un lavoro che ha portato dentro quel quartiere tutta una serie di cose, insomma, io penso all'Asilo Nido che prima non c'era, penso alla Palestra Popolare, penso al Parco dei Viali di Galli. Penso a tutta una serie di battaglie, per esempio il fatto che è l'unico quartiere dove abbiamo impedito che si facesse un PUP proprio lì a piazza accanto al giardino pubblico, quello che c'è stato. Sono state fatte tante cose belle, però sono state fatte pure un sacco di cazzate, ma diciamo San Lorenzo è un po' il Pignero, sono un po' anche, come si dice, il culo per sacco di tutta Roma, cioè quando i compagni pure vanno via dai periferie oppure se sono stufati di stare dentro al centro sociale vanno a passare una bella serata al Pignero, a San Lorenzo, e in qualche modo dentro quell'agora, dentro quello spazio si riproducono gli stessi meccanismi che comunque vivono nei nostri luoghi, perché comunque voglio dire dentro sta città, ho capito, prima, però se è così non è un granché. È certo che non è un granché. Certo, cioè, vedi, se i nostri spazi sono esattamente... Perché rimane solo quello, capito Luca? Cioè, mentre prima tu costruivi, cioè in alcune parti, poi voglio dire, in alcuni quartieri secondo me è così. Mo il Pignedo non lo so, io ho visto pure compagni di grossa tradizione libertaria dove fai conti via a fianco la mano e dove fai conti appunto con pezzo dei quartieri che vorranno bruciare immigrati, pure al Pignedo, e quindi le sei trovato Ti sei dovuto trovare una forma di mediazione. Però scusa, Nunzio, ti interrompo solo perché queste categorie che noi usiamo un po' in maniera un po' leggera, perché le fiaccole a bruciare gli immigrati. No, le fiaccole forse non mi. No, fammeli un attimo. No, perché voglio dire, poi cioè, non è che l'immigrato è questa figura indefinita, cioè l'immigrato. Bravo, è l'immigrato stronzo. No, ma non è questo, cioè. Come l'italiano bravo e l'italiano. No, ma c'è il bengalese, c'è l'immigrato da 10 anni, c'è l'immigrato da 20 anni, c'è l'immigrato. C'è l'italiano. Cioè, voglio dire. Queste categorie che generalizzano poi portano, adesso io la vicenda della fiaccolata neanche mi interessa particolarmente, quello che mi interessa è cercare di capire se il quadro che ha descritto Daniele e che in qualche maniera riguarda purtroppo un'incapacità di gestire delle contraddizioni grosse in una fase di grande trasformazione, cioè noi stiamo approcciando nella crisi a una prossima fase in cui quello che verrà, quello che vuole essere valorizzato, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, probabilmente tu non hai sentito. Mi sa di no, perché sono arrivato, che sentivo Daniele, mi fa sì, sempre. Però proprio di questo abbiamo parlato, cioè in una fase di grande crisi in cui i servizi, le città, i territori diventano forse l'obiettivo principale per la valorizzazione capitalistica, usiamo questo termine antico, per fare i profitti. No, e sono, come dire, obiettivo come dire, forte di un interesse che va dal web, dalla biosfera fino ai progetti di rigenerazione urbana e via dicendo, gli investimenti. E noi arriviamo in una fase in cui questi territori, invece di esprimere una capacità di contrasto, di progetto, di percorso, esprimono questo tipo di disagio o questo tipo di incapacità. E siamo messi male perché c'è il rischio che l'uscita da questo percorso, invece che ce la siamo immaginata come un'uscita di progetto, di percorso, anche di liberazione, che poi chi di noi potrà dire se ne può uscire, non se ne può uscire. Io continuo ad essere dell'idea che non se ne può uscire, come dire, in maniera semplice. Daniele prima diceva dobbiamo costruire zone liberate. Io ho sempre pensato che purtroppo le zone liberate, finché c'è lo Stato, lasciano il tempo che trovano, finché non decidono di usare la forza che è componente della sovranità. Ma adesso se complichiamo troppo la vita, stiamo sul punto. Però di fronte a queste grandi trasformazioni, di fronte a una giunta che tentenna, che non sa che fa, o sa che fa o non sa che fa, dice cose e ne fa altre, perché io devo dire con molto chiarezza, noi abbiamo un assessore alla rigenerazione urbana che ha annunciato 3 progetti in questa città. E vabbè, la pedonalizzazione dei fori è più una cosa di Marino. E vabbè, interessante. Il secondo progetto, il tridente, la pedonalizzazione del tridente. Il tridente, stava a parlare di via del corso, via Babbuino, che non gliene frega un cazzo a nessuno. Bravo. Di queste cose. La terza, la città della scienza. Sì, la città della scienza. Dove? Sulla riva destra del Tevere, cioè dove già ci sta l'auditorium, il maxi, c'è abbia tutta gente con i sordi, c'è Parioli ai piedi, insomma la zona. No, la riva destra è un modo di dire, non è la riva vera. Perché quella è la sinistra. No, non è la riva geografica, riva destra è intesa. A me non è che mi piace tanto sta cosa. Non mi pare un bel segnale. Ma è un segnale devastante che la dice lunga anche su come la politica, che appunto governa per il mercato anche dentro questa città, non c'è più ricchezza da distribuire. Cioè, negli anni 70 c'era uno scontro forte, comunque c'era un'egemonia che passava tramite il clientelismo anche dei grandi partiti, per esempio. Quindi, che ne so, tu potevi fare lotte come disoccupato con la speranza che poi, no, magari, che ne so, piavi il posto con la 285, c'era ricchezza da distribuire. Adesso non c'è più niente. Anche chi sta governando si è assunto la responsabilità in questa situazione di accettare una sfida che è quasi una sfida di accettazione di una guerra sociale ai fasci maggioritarie e più povere della popolazione. Chi oggi va a governare in questa situazione non c'ha neanche la capacità appunto di utilizzare la mediazione politica, oppure di distribuire qualcosa. Cioè c'hai solo amichetti tua, quelli che ti hanno sostenuto, ma tanto questi in dove vanno? Quando tu devi dare 800 milioni di euro ogni anno al Banco di Roma dei derivati, hai costituzionalizzato il pareggio del bilancio, hai accettato tutti i diktat che ti sta dall'Unione Europea, che poi è lì il vero nel centro dello scontro c'è una riorganizzazione generale di un nuovo polo imperialista, perché poi, e dentro questo poi si può discutere, è chiaro che le città diventano un elemento cioè di contraddizione esplosivo, per cui le aree, ma poi sarà votata la modifica costituzionale sulle aree metropolitane, è chiaro che quello che dicevi tu, la valorizzazione di questo, di la sussunzione proprio dentro il turbo capitalismo finanziario. No, ma perché appunto siamo in realtà. Però noi ci siamo provato, Luca. Ma il problema non è chi ci ha provato, chi ci ha provato. Provato nel senso, abbiamo provato a costruire comunque dei pezzi che ci mettevano nella condizione quantomeno di dare un senso all'ideale che ci ha sempre guidato, insomma. Però siccome secondo me c'è in questo momento, io te la dico così. Poi tu mi rispondi, poi chiudiamo perché ci abbiamo. Sì, ma che stai fatto? No, c'è stata questa occupazione a Regina Elena, via Regina Elena, giusto? Stamattina? Sì, li sentiamo fra poco. Non lo so, penso ancora dobbiamo sentirle. Porta Regina Elena, raga, mamma mia. No, viale Regina Elena. No, però aspettami un attimo. Siccome allora sulle cose concrete ci saranno occasioni di parlare, perché le battaglie sono aperte dall'ADAC alla CEA, al territorio, alla tutela del territorio, ma adesso non stiamo parlando di questo. Però noi siamo partiti da una difficoltà che è nei luoghi, diciamo, più simbolici della costruzione di intervento politico altro. Bravo. Della città. Allora io su sto piano simbolico però c'ho un problema serio, perché col Pigneto abbiamo parlato con Daniele, a Daniele alla fine abbiamo detto, ma questo problema l'abbiamo inquadrato in una certa maniera, questo non si può lasciare passare così, non può essere che certi poteri possano gestire una situazione del genere, fosse quello che fosse noi questa cosa la dobbiamo più a depetto. Sul piano politico parlo, perché già abbiamo fatto pure all'epoca con Dario, quando c'è fu a Sarta i bengalesi, si è mandato lì, sempre la stessa storia. Ho capito, però se qualcuno gestisce il traffico dei senegalesi e qualcuno che sa, diciamo, adesso Daniele ha detto delle cose precise, questa è la città, c'è un prefetto, c'è un ministro degli interni, oh. Certo. Oh, e che famo qua? Sì, ministro, infatti oramai tocca capire pure il ruolo, qua, no? E qua bisogna che qualcuno risponde delle azioni che fa. Detto questo però, tornando a, diciamo, a quello che ci riguarda di più, su San Lorenzo, cioè c'è un capitale simbolico di questa città che bisognerà pure trovare una soluzione, perché noi dobbiamo riconquistare una vivibilità di questo spazio. Non lo so, io la domanda che ti faccio di San Lorenzo, tutta prima di tutto, perché a me interessa San Lorenzo tutta. Tornate delle cose, cioè, diciamo, l'abbiamo dopo i primi anni 90, poi te ricordi perché c'è stato, insomma, dico, qualcosa in più c'è, magari non coincide proprio completamente con i nostri punti di vista, ma io sono convinto che c'è tanto, ma non è che c'è poco, io non so criticare. Penso che ci sia la palestra, c'è l'Atletico San Lorenzo. Sì, ma c'è l'Atletico pure, che è un'altra esperienza nuova, secondo non me. Non è che c'è, voglio dire, c'è tanto. Il problema però è che simbolicamente sta passando che un pezzo della storia di questa città, in particolar modo la via, è in preda al peggior degrado e alla peggior gestione. E questo non è accettabile. Noi dobbiamo trovare una soluzione, bisogna che ci ragioniamo sopra, noi dobbiamo restituire simbolicamente, dobbiamo restituire simbolicamente quello che è un luogo delle lotte di sta città, oppure magari parlare con i compagni che ci abitano. Ma io parlo con tutti, ma io sto parlando di un problema politico, cioè certo, le cose vanno conquistate nella mente, cioè va posto un problema nella testa. Dei compagni, questo è un quartiere pieno di compagni, non c'è ragione per cui debbano funzionare le cose così. E se dietro ci sono degli interessi, vanno denunciati e smascherati. E ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Adesso non ce l'ho con te, non è che ti sto chiamando. No, ma io te dico per assurdo, no? Prima uno fuggiva dalla periferia per andare, che ne so, a San Lorenzo. Io ti dico che adesso, per assurdo, per tipo di lavoro pure che si fa nelle periferie, per tipo di contesto anche differente, meno festaiolo che si vive nelle periferie, tu sai bene, tu pure vieni dalle zone nostre, dopo una certa ora è tutto chiuso, per cui spazi sociali che ci stanno possono diventare un'alternativa, diciamo, al fatto che non c'è più niente, e quindi comunque instauri pure un rapporto, diciamo, di rispetto, cioè per assurdo c'è meno problemi nei quartieri popolari dove i compagni lavorano bene che dentro i quartieri storici dove c'era la sinistra, Testaccio, il Pigneto, San Lorenzo, lì c'è il panico. Ma mentre lì, non è che dall'altra parte stavo bene, però no, se voglio no, dire, certo, certo. La presenza dei compagni, che ne so, si sente, si vede che comunque c'è un rapporto col territorio, cioè anche certe cose che ti permetti là fino alle 5 del mattina, al quartiere, ai quartieri nostri, quelli periferici, ma te tagliano proprio la testa, cioè, ha capito? Non è che tu puoi permettere di fare il casino che può fare Pignero a San Lorenzo in un quartiere, che ne so, penso Spinal, cioè, mi viene da pensare, o Artufello, capito? Ando cazzo vai, scusate la parola. Però è un problema che, insomma, è una discussione, perché poi ne abbiamo fatto diversi pezzi. È una discussione interessante, perché... Va bene, io ti ringrazio, Nunzio, perché c'è un'altra telefonata. Grazie a voi aver fatto questa discussione, in bocca al lupo, buon lavoro, ci vedremo domani, ciao. Adesso casca la linea, sentirete tutto, che non è una cosa da radioserie, ma noi siamo così, rimani tutto e prego la regia di fare qualcosa, aiuto magari aspetta un attimo, no, non aspetto tutto.